sera mi guardi, sempre preso da tutt'altro. Chissà se stanco più del lavoro, dei miei stupidi problemi. Saprei mai guardare oltre ai miei ridenti 40 anni, sapendo che guardare oltre non vuol dire solo guardare avanti. Guarda quella bambina che piange per delle sciocchezze, guardala sola in silenzio con le sue pochezze. Guarda quella bambina e il suo problema comune, mille più cose da dire ma orecchie nessuna. Che la realtà non è poi così male, dalla realtà che si ispirano i sogni. La realtà non è poi così male, dalla realtà. Quando in quei giorni mi senti raccontare cose vuote, ripensa quando da bambini scrivevamo i temi a scuola, senza voler guardare oltre, ma sentendo chiaro dentro la paura e il desiderio di vederci grandi un giorno. Se là fuori è tutto buio, se là fuori è tutto scuro, se ci sono anche i fantasmi e c'è ciò che non conosco. Se là fuori è tutto buio, se là fuori è tutto scuro, se ci sono anche i fantasmi e c'è ciò che non conosco. Guarda il suo essere vicina e allontana la morte. Bacia le sue manine, le sue rughe di espressione. Imprimila bene in mente, non la confondere con altre persone. Perché là fuori ci sono i pazzi e tutto ciò che non conosco. Perché là fuori è tutto nero come il buio dell'inchiostro. Perché là fuori ci sono i pazzi e tutto ciò che non conosco. Perché là fuori è tutto nero come il buio dell'inchiostro. E la realtà non è poi così male, è dalla realtà che si ispirano i sogni. La realtà non è poi così male, perché è dalla realtà che si ispirano i sogni. La realtà non è poi così male, è dalla realtà che si ispirano i sogni. La realtà non è poi così male, dalla realtà.